D. Ascolta il testo. Carlo Rubbia ha ottenuto il premio Nobel nel 1984 per le sue ricerche sull'interazione nucleare debole che costituisce, insieme alla gravità, all'elettromagnetismo e all'interazione nucleare forte, uno dei fondamentali campi di forza dell'universo. Dal 1971 al 1988 è stato professore di fisica alla Harvard University. Dal 1990 al 1993 è stato direttore generale del CERN di Ginevra, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, dove aveva collaborato come ricercatore per diversi anni. L'attività scientifica di Rubbia si è rivolta anche alla produzione di energia, grazie all'uso di nuove tecnologie. Un altro Nobel italiano, premiato nel 2002, è Riccardo Giacconi, uno dei maggiori astrofisici contemporanei. Ha dato inizio a una nuova branca dell'astronomia che studia gli oggetti celesti che emettono raggi X. Negli anni 60 Giacconi si era dedicato alla progettazione di un satellite mirato allo studio di tale fenomeno, lanciato poi nel 1970. I risultati ottenuti da questo satellite segnano in quegli anni il record mondiale delle citazioni scientifiche. Questo scienziato italiano, ma di cittadinanza anche statunitense dal 1981, ha guidato la costruzione del più grande interferometro ottico da parte dello European Southern Observatory. È un insieme di 4 telescopi che lavorano insieme e si trasformano in un sistema capace di fornire immagini del cielo in alta risoluzione.